Io da una settimana, 8 giorni, mi sento tutti i giorni con Iachini, con i messaggi, gli ho comprati un iPad perché è un allenatore che anche senza iPad oggi secondo me è uno strumento indispensabile per collegarsi con tutto, glielo ho regalato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'apertura per Ibrahimovic e va al cross, bacio sul secondo palo, PSG in vantaggio, ha segnato Adrien Rabiot, apre molto bene Thiago Motta per Di Maria, al centro Ibrahimovic alla conquista di Stamford Bridge, 2-1, eccolo il gol decisivo di Ibrahimovic. Vive le 14. Siamo più forti quest'anno perché giochiamo più come squadra, perché abbiamo dei giocatori individuali che fanno la differenza, per esempio come Di Maria, Lucas e Ibra, no? Davanti. Sicuramente dobbiamo pensare partita per partita, adesso era un ottavo di finale, abbiamo fatto grandissima prestazione sia l'andata che questa sera, penso stasera ancora di più visto che giocavamo fuori casa, abbiamo dimostrato di essere una squadra con grandi personalità che è venuta qui a giocare a calcio come vuole il mister, come vogliamo noi e abbiamo trovato la vittoria. Ciao per oggi Pardo. Come va? Come benissimo, va? Abbiamo le magliette, abbiamo le magliette e ho anche capito che De Luca è, che salutiamo, che ringraziamo, è svizzero, ma è svizzero tedesco, ho capito questa cosa oggi. Già lo sapevo che era svizzero, però è super di Zug. Perché stavo facendo le foto, qua sono arrivate le magliette, siamo al top. Io odio Cruciani perché è povero, una persona tanto carina, un portatore di pace, sì, un uomo così pacato. Per chi può, Radio 24. Esatto, il Kofi Annan di Radio 24. E stavo facendo queste foto e De Luca è arrivato prossimamente, ha detto stiamo cominciando e quindi cominciamo. E salutiamo Giorgio De Luca, autore di questo programma. Giorgio De Luca, salutiamo Andrea Roccabella, salutiamo Federico Binda e salutiamo anche il Paris Saint Germain e soprattutto Ibrahimovic. Ma non era quello che in Champions League non combinava mai niente, che sbucava le partite importanti? Quanto lo amo. Facciamo così: se dovesse uscire la Juventus o Bayern Monaco, non abbiamo dubbi su chi fare il tifo per la finale di Milano, no? Hai qualche dubbio? Sì, la finale Paris Saint-Germain contro? Contro chiunque. Contro l'Arsenal, no, impossibile. Arsenal la vedo duretta. E che ne so, magari 3-0 facile al Camp Nou, facile, sì. Semplice. Uno scherzetto. 3-0, no. Doppietta di Giroud. No, però dai, Ibra, pensa Ibrahimovic che alza la Champions League al Milan. Sarebbe bellissimo. No, sarebbe, io sono fantastico. Sto con Ibra, nel senso sì, che sembra... Poi sono un po' nostri, Thiago Silva e Verratti che abbiamo sentito parlare, Cavani che invece si lagna, non si alza mai dalla panchina, tanto che andrà via. C'è Costa Curta che ha detto che Ibra lo riporterebbe al Milan con la cariola. E chi non lo farebbe? Tanto sempre al Milan, ieri è uscita la... si affrettano a far sapere attraverso le pagine del Corriere della Sera che Berlusconi ha cenato con Brocchi. Sì. Mihajlovic non invitato e quindi mi sa che ha ragione l'amico Alessandro Alciato. E poi sai, l'altra sera avevamo Lippi, che ringrazio ancora la Tiki Taka, e insomma lui sicuramente pensa più una carriera da consulente, da direttore tecnico, che una carriera da allenatore in panchina, pensa più alla nazionale che al Milan, però secondo me se arrivasse una chiamata del Milan, magari con il suo amico Brocchi da lanciare, del quale mi dicono un gran bene, poi c'è anche la mia simpatia personale che forse deforma un po' le cose, però quello che mi giunge è che insomma è un allenatore delle giovanili che ha una visione, quindi non ha soltanto la visione importante del vincere la partita, del vincere il campionato, ma anche e soprattutto la visione di valorizzare i giovani nella maniera più opportuna. Sì, anche se continuare a cambiare allenatore non mi sembra la politica. Ma si sembra la politica male. E fra l'altro nella sua gestione c'è sicuramente un miglioramento. nel senso che c'è un'evoluzione positiva. Inzaghi ha pagato non soltanto il risultato complessivo, ha pagato il fatto che la seconda parte della stagione non fosse stata così buona come la prima. Inzaghi era arrivato a dicembre in una buona situazione, con delle prospettive, e poi a gennaio quel Milan lì si squagliò, e questo secondo me poi ha inciso sul giudizio finale. Sì. Nel caso di Mihajlovic, no, sconfitta di Sassuolo, è la seconda delle ultime 18 gare ufficiali. Secondo me sta facendo quel che sta facendo il suo, sta spremendo la squadra, quel che è la squadra da dare, che è quello che continuiamo a vedere. C'è chi scrive: mi spiegate perché prima Real Madrid e poi soprattutto lo United hanno dato via Di Maria per tanti soldi. Questo è un buon motivo. E poi il solito amico Ibra, di solito sbagli i quarti. Paris Saint Germain Barça 0-3. Magari è lo stesso ascoltatore dell'altro giorno, quello che indovina tutte le giocate. Sì, va bene. Vediamo se Ibra sbagli i quarti. Noi facciamo il tifo per vederlo a Milano. Allora, ci fermiamo per il traffico. Naturalmente invitiamo tutti. 800 24 00 24 è il numero verde. Messaggi e WhatsApp al 349-238-6666. Traffico, e poi parliamo di varie cose. Varie cose, tra cui Arrigo Sacchi. Tutti convocati. Tutti convocati. Qualcuno scrive: quando mercoledì la Juve a Monaco verrà eliminata con Alessandro, Morata, Lemina e Cuadrado in panchina, capirete il perché delle dichiarazioni di Arrigo Sacchi. Alessandro da Finale Emilia. Beh, hanno tutti la palla di vetro, sono bravi, certo. Bravi. C'è invece chi mi invita via WhatsApp a leggere la manca di Michele Serra, dedicata a Zamparini, l'hai letta? No, stamattina no. Un serio studio, comincia così: un serio studio socio-psicologico dei nostri anni, così liberi dal senso del limite da rasentare la patologia, non dovrebbe ignorare la straordinaria figura di Maurizio Zamparini, presidente del Palermo Calcio, meritatamente famoso per la frenesia con la quale licenzia e assume allenatori, dando pubblicamente del deficiente a questo e dell'inetto a quell'altro. Il tono di voce di qualche decibel superiore alla media peggiora l'intenzione ostile, rendendolo umiliante per entrambi, l'osteggiato e l'osteggiatore. Ne risulta una considerazione del lavoro che nemmeno nella Louisiana della segregazione sarebbe passata inosservata. Zamparini non è un padrone vecchia maniera, quelli erano prepotenti ma paternalisti, ma nuovissima maniera, diritti, doveri, meriti, demeriti, tutto è azzerato, conta solamente l'umore del capo. Il mondo ha una sua proiezione, o si adegua all'immagine che lo stesso Zamparini ha tratteggiato, deve subirne le conseguenze. Uno spettacolo che sarebbe solamente ridicolo se non fosse anche triste, preciso segno della distruzione del lavoro come fonte, oltre che di reddito, anche di dignità, eccetera. La tocca piano, il signor Serra la tocca piano. C'è Allegri che, a proposito della polemica di Sacchi, che è stata pesante, Pierluigi. Ieri sorprendente, diciamo. Sì, perché ieri poi abbiamo parlato. Sì, ne abbiamo accennato più che altro perché è uscita mentre eravamo in onda. Sai, dice la Juventus 10 anni davanti a tutte, però non ha un problema con i verbi, cioè sa coniugare solo il verbo vincere, mentre noi dovevamo coniugarne al Milan vincere, convincere e divertire. È una debolezza, si dirà in Italia vince. Io replico anche il Rosenborg, è sempre primo. La Juventus come Rosenborg mi sembra tanta roba. Famoso Milan Rosenborg. Bravo, cioè, famoso Milan Rosenborg che salutò il ritorno di Arrigo Sacchi. Che però, allora, il fatto che ci sia stata questa gaffe involontaria dell'aver citato proprio quella squadra lì, in qualche modo racconta, secondo me, l'onestà del personaggio. Nel senso che se io devo dirti una cosa cattiva e non vado a fare un autocol del genere, se lo ricorderà che c'è stato l'episodio del Rosenborg, quindi vuol dire che lui quelle cose le pensa. Poi sai, le circostanze dell'intervista, la frase tipo uscire male, io non sono d'accordo, a quello posso dire che non sono d'accordo, nel senso che sicuramente quel Milan lì aveva una qualità di rendimento anche estetica enorme, però insomma, sì, non sempre, non sempre, e la Juve pure almeno a tratti questa qualità ce l'ha, cioè io ho visto grandi partite della Juve in questi anni con Conte e con Allegri, quindi poi sulla categoria filosofica della spettacolarità si può discutere a vita, ovviamente, però insomma, francamente non lo so, non vedevo il motivo di questa cosa qui. A me sembra che la Juve sia la squadra più forte d'Italia di questi ultimi anni, la più solida, mi sembra, da un punto di vista di progetto imprenditoriale sia quella più avanti, forse anche perché è arrivata prima allo stadio di proprietà. Bisogna capire se questa è una causa o una conseguenza. Sicuramente lo stadio di proprietà aiuta, è anche vero che però l'hanno costruito, e quindi se l'hanno costruito è perché hanno pensato di costruirlo. Sì. Quindi insomma, comunque la si voglia vedere, secondo me sono avanti, e da un punto di vista di spettacolo secondo me è un'ottima squadra. Poi si può discutere sulle vette di spettacolarità di alcune partite del Napoli, che possono essere superiori, anche della stessa Roma o della Fiorentina. Non è un altro pianeta, ma però sappiamo che è una filosofia. Non mi sento proprio di fare una colpa. Io ieri, fra l'altro, ho moderato un incontro con Chiellini, che è stato molto bello, perché abbiamo parlato di lui, di come era da ragazzo, della disciplina. Abbiamo parlato chiaramente con le classiche metafore aziendali, no? Quindi leadership, spirito di gruppo, aiuto, ruoli, eccetera, eccetera. E devo dirti che parlandoci capisci tante cose di lui, certo, e della Juve, certo. Capisci quella famosa definizione di soldatini di Cassano, che tanto aveva creato polemiche, ma che in realtà è una realtà, ed è una realtà positiva. È il motivo per il quale la Juve vincolo, ma l'ha detto lo stesso Chiellini, sì, verso la fine gli è uscita una frase, sì, abbiamo un grande ex juventino. Chi è? Claudio Gentile. Ecco, e ce lo potrà confermare. Che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno. Tutto bene. Sì, bene, grazie. Partiamo da qui, partiamo dall'intervista di Sacchi, e insomma dal senso della disciplina che è insito nella Juve. Insomma, poi da... voglio approfondire con lui uno dei più grandi misteri del calcio italiano. Qual è? Che scrive nel suo libro, e sono stato gentile. Ah sì, certo. Uno dei più grandi misteri del calcio italiano, che è stato Gentile, che ha fatto grandissime cose con l'Under 21, in pieno dopo mondiale, via, non si è più visto, sparì, scomparso. No, partiamo da qui allora, poi sulla Juve ci andiamo. Claudio? Beh, penso che insomma nel libro si leggerà un po' tutto, perché dico il perché e il per come. Sono stato mandato via dopo aver fatto un risultato che non ha fatto nessun allenatore. L'ultimo è stato Pozzo, e quindi parlo della medaglia olimpica che ho vinto ad Atene, poi dove sono nate le Olimpiadi. E niente, sono stato mandato via, come ho già detto, perché non davo retta alle raccomandazioni di certi giocatori che secondo me non meritavano, e quindi questo mi ha creato molti nemici. Però guardi, devo dire che sono comunque orgoglioso di questo, perché oggi si parla tanto, no, della disonestà, della corruzione. E comunque c'è sempre un po' di gente, in Italia ce n'è parecchie, ne conosco tanti, che sanno anche dire di no. E io facendo questo purtroppo ci ho rimesso la mia professione. Ma da chi arrivavano le raccomandazioni? Da procuratori, da ambienti federali? Guardi, procuratori, direttori sportivi, presidenti, e anche offrivano anche dei soldi. Quindi voglio dire, non è che era una cosa da poco. Però come ho impostato tutta la mia carriera, che non ho mai avuto a che fare con niente, e volevo continuare anche come tecnico, rimanere sempre quella persona che è leale, sportiva, che davanti a delle situazioni le affronta senza dover raccomandarsi a nessuno. Però questo purtroppo in Italia a volte ti porta a pagare un caro prezzo. Può pesare. Sì, certo. Ma 10 anni senza panchina però sono tanti. È dovuto a quello? Ma guardi, sì, beh, è dovuto a quello. Lei tenga presente che quando lei insomma si mette anche contro la federazione, non penso che ci siano molte società disposte ad assumerti, o a meno che vai all'estero. Ma io ho avuto delle richieste all'estero, ma io ho detto, ma perché non posso allenare nel mio paese? Ho dimostrato di poter far bene. Certo. E quindi insisto, non mollo, spero ancora che ci sia qualche presidente, qualche società formata da gente che non vive di compromessi, di poter tornare ad allenare. Beh sì, dobbiamo. Zapparini adesso vedrà fra un paio di settimane. No, scherziamo, anzi facciamo un grande in bocca al lupo a Walter Novellino, che sta iniziando questo percorso. Ieri l'abbiamo sentito. Tornando al discorso sulla Juve e anche all'intervista di Sacchi, qual è la... dove sta la verità innanzitutto, ammesso che esista la verità con la V maiuscola, e che cosa ti impressiona di più di questa squadra? Io penso che stia anche nell'antipatia di Sacchi verso Allegri. Sì, questa è una cosa che si sa già da parecchio tempo, quindi non è che è una cosa che è nata ieri. Per quanto riguarda la Juve, guardi, io al mese di ottobre, il 5 ottobre, la Juve era a 12 o 13 punti dall'Inter. Io feci una dichiarazione ufficiale dicendo che la Juve alla fine del girone di andata sarebbe stata nelle prime tre, addirittura era seconda. Cioè, malgrado un inizio difficile, sul potenziale Juve non si poteva mettere in discussione, tanto si è visto, no? Partita dopo partita, sono, non so, 15 partite consecutive con risultato positivo, quindi era una squadra che era segnata. Certo, adesso la cosa importante è la Champions, perché è lì che diventi una squadra di livello internazionale se riesci ad arrivare. L'anno scorso ci sono andati vicino, è stato bravissimo Allegri con tutte le persone un po' scettiche nei suoi confronti, ha dimostrato inizio comunque il campionato di arrivare in finale, quindi merito suo. Sa che cose, non sarei neanche qui a parlarle sinceramente, perché non è una questione tecnica, è una questione di persone, quindi sorvolo su queste critiche, no, nei confronti di Allegri, che non trovo assolutamente giustificate. Quindi, solo storia di antipatia, solo storia di antipatia personale, sì. mentre sa che ha grande simpatia per Conte e dice bravissimo, a talento, devo solo togliersi di dosso un po' di italianità. E poi, sì, insomma, ho letto l'intervista. Poi, sì. Posso dire una cosa? A me sembra, a parte che la definizione europea è un po' una di quelle etichette, ma adesso Draghi ha appena sistemato l'Europa, quindi dal punto di vista economico fra poco avremo le borse, quindi insomma siamo ancora una volta gli italiani, almeno dal punto di vista, no, Super Mario, questo qui fa delle cose straordinarie, ma chiusa la parentesi. Quel concetto di europeismo è molto vago, no? Però a me sembra che Allegri, dal punto di vista della mentalità internazionale nelle grandi competizioni, e in qualche modo lo dimostrano anche i risultati, non sia inferiore a Conte, no? Cioè, teoricamente gli dovrebbe piacere forse più Conte più Allegri di Conte, o no? Ma guardi, che non è che il parere di Sacchi sia in maggioranza o molti condividono questo suo punto di vista. Un allenatore che fa questi risultati dopo tutto quello, anche l'inizio di questo campionato, che gli sono mancati tre giocatori fondamentali, riesce, malgrado una difficoltà iniziale, a riportare la squadra al vertice della classifica e comunque ancora nelle possibilità di parlare. Ma certo, io voterei per lui, cioè è quello che ha fatto più risultati. Ebbene, un po' guardi, se vogliamo metterla un po' così, posso fare un paragone, è un po' come la mia situazione: se vinci ti criticano e ti manda via, se invece sei uno che... Un signor sì, puoi chiamartela. La cavi. Un'ultima cosa, Claudio, guardando i telegiornali e vedendo quello che sta succedendo in Libia, quanto sente ancora sua patria in Libia? No, guarda, io la sento moltissimo. Nel capitolo del libro, il primo capitolo è dedicato tutta alla Libia. La Libia in questo momento è su tutte le televisioni del mondo. Cioè, io ricordo e racconto di una Libia non del Nord Africa, ma una Libia europea, perché era una nazione che sembrava aveva molto della città europea, grazie agli italiani, grazie anche agli americani, che hanno fatto Tripoli e tutta la Libia un paese molto civile, molto vicino all'Europa. Poi c'è stata nel 70, 69-70, c'è stata questa entrata del dittatore Gheddafi, che voi potete immaginare. Quando mi chiamavano Gheddafi mi veniva la pelle, insomma, mi veniva una rabbia incredibile, perché Gheddafi aveva mandato via tutti i miei zii, i miei cugini, gente che aveva investito in quel paese tutte le loro risorse, avevano fatto aziende, sono dovute venire via solo con la valigia. Farsi chiamare Gheddafi per me era una cosa incredibile, però io non potevo dire niente, perché comunque Gheddafi era azionista della Fiat, e quindi potete immaginare, no? Dovevo mandare giù questo boccone amaro che, dico la verità, se l'avessi avuto vicino gli avrei veramente fatto un'entrata di quelle dure, di quelle pezzi di maglietta, pezzi di maglietta. Ma meritavo qualcosa di più, perché quello che ha fatto, insomma, ha distrutto tutti gli italiani che erano lì, che avevano da 35 anni, 40 anni investito in quel paese, e poi si sono trovati con niente in mano, con solo le valigie e basta. Insomma, è stato un personaggio pessimo. tantissimo nella vita degli italiani che erano in Libia. Certamente, anche dei libici che erano lì e che sono rimasti. Grazie. Grazie. Claudio, bocca al lupo. Bocca al lupo davvero. Quando vuoi siamo qui. Ma dove sei? Dove vivi? Quando vieni a Tikitaka? Io vivo a Como. Como, Cologno, un attimo. Vabbè, adesso Mettiamo d'accordo. Vai da parte a Tikitaka. Facciamo ma io l'ho già detto, no? Dipende se qualcuno vuole mettersi la faccia, è solo quello. Io la panchina non te la posso offrire il divano di Tikitaka, però è ben frequentato. Vabbè. Ti ringrazio comunque. Grazie a voi, buona giornata. Poi lo ricordiamo, io oggi pomeriggio vado poi a fare la sessione a Palermo, perché Novellino mi ha chiamato. C'è una sessione di pasta con ricci e pane con la Muse. Dopo ne parliamo. Perché dici quali sono i temi tattici che porterai al Palermo. Questa è la grande rivelazione di Pardo, sì, subito dopo. Sì, adesso fra poco, sì. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data. Ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica Palazzina Appiani, sabato 12 marzo ore 15. Ciao! In collaborazione con Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Tutti convocati. Ma qui sarà un caso sul web, l'inno del Rosenborg, come il Frosinone culone, sono le grandi leggende sul web, sì. per noi giovani, ho sentito cose più allegre durante le funzioni domenicali. C'era stato anche a Torino, avevano fatto in piazza un flash mob, sì, per fare. Potremmo organizzare un flash mob un giorno, certo, per fare. Ci scrivono a proposito delle dichiarazioni di Gentile sulla Libia, anche che invece, insomma, ci sono voci discordanti, ovviamente. Insomma, c'è chi fa riferimento al fatto che poi in realtà, dopo la caduta del regime di Gheddafi, l'instabilità internazionale è cresciuta. Ovviamente, questo qui non è. Qual è il programma di esteri di Radio 24? Nessun luogo è lontano? Sì, anche. Nessun luogo è lontano. Quante ne so? Mi sono ingoiato il palinsesto. Europa 24, nessun luogo è lontano. Libia oggi ce l'abbiamo? No. Manca. Focus Nord Africa non ce l'abbiamo. No, vabbè. Manca. Senti, compreso abbiamo la risposta di Allegri a Sacchi. No, hai visto Barisoni che sta facendo la ola? Sono cominciati i carri allegorici dopo la conferenza stampa di Draghi. C'è Barisoni che sta facendo il trenino qui con tutti. Deborah Rosciani. Allegri, vuoi sentire? Allegri, sentiamo. Io più che rispettare le idee di tutti e soprattutto di Sacchi, che è uno che ha stravolto il calcio, è un guru del calcio, quindi voglio dire, quando parla l'ascoltiamo, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, questo è un altro discorso, ma questo fa parte della vita, quindi non ne vedo tutta questa problematica. Ma mi hanno insegnato che a scopiazzare, a parte che nessuno nasce imparato, a scopiazzare bisogna anche sapere scopiazzare. Comunque io a Sacchi li voglio bene, perché voglio dire, è una persona di 70 anni e quindi voglio dire. Max, mica male. Sì, sì, sì, qui mi chiedono, sì, questa qui è la frecciata finale sui 70 anni, sì. Insomma, però il resto è vero, è condivisibile, cioè chiaramente un guru e lo si ascolta, sono d'accordissimo, poi si può. Lo si ascolta, poi si può essere d'accordo. Mi chiedono la frase che mi è rimasta in canna su Chiellini di ieri. No, era una frase sul fatto che c'è un livello di controllo, un riferimento al fatto che a Torino ci si comporta bene anche perché magari ci sono meno tentazioni notturne rispetto a Milano e poi perché c'è una grande attenzione da parte della società, un grande controllo da parte della società. È tutto qui, insomma, il famoso esempio dei soldatini che qualcuno aveva interpretato in termini anche negativi nasce dalla famosa affermazione di Cassano che aveva detto: io sono soldatini, sono bravissimi, sono fortissimi, ma c'è un livello di disciplina che per me, cioè per lui Cassano, sarebbe stato troppo tollerabile. Insomma ragazzi, però è evidente che funzioni, questo non c'è dubbio, ma questo lo sa anche Cassano, lo sa Chiellini, lo sanno tutti, lo sa anche Sacchi assolutamente. Poi bisogna la disciplina, l'ordine, il rigore, certo. Ai tifosi della Juventus preferiscono vedere una squadra molto spumeggiante, divertente, che non vince mai nulla, oppure preferiscono alzare dell'argenteria. Gino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sacchi, basta, per favore, non se ne può più. Cioè, io ho sentito Allegri, che è una persona molto educata e gentile, ma io non sono così. Non se ne può più di sentire Sacchi continuare a dire sempre le stesse cose. Uno che ha avuto la fortuna di vincere con un'ossatura fatta da tre giocatori che nessuno ha mai avuto, dappertutto ha sempre fallito. Ai mondiali è stato ripescato. Fallito una finale mondiale, forse no. Sì, ma in finale ci è arrivato con ripescaggio, se non ricordo male. In ogni caso il risultato finale era stato la finale. Ci è arrivato con la vittoria sulla Nigeria al 120esimo. Sì, sì, ma io guardi, non ho nessuna. Penso sinceramente che Sacchi, ma questo l'ho riconosciuto anche Allegri, sia uno di quelli che ha cambiato la storia del calcio nel mondo, nel senso che è stato, al di là di quello che ha vinto, che è molto, ma c'è probabilmente chi ha vinto anche più di lui, però è stato una di quelle figure che hanno cambiato il gioco, quindi su questo non c'è discussione. Poi sul punto di vista su Allegri io non sono d'accordo, sono con Allegri in quella roba lì, voglio bene Arrigo che mi vuole far giocare anche Terzino, sì, non so dove stopper. Però su questo sono d'accordo con Allegri, credo che sia assolutamente ci sia spazio per la libertà di ognuno, sono perfettamente d'accordo con Allegri. Però adesso non è che Sacchi è diventato uno sfigato perché magari sbaglia o perché non siamo d'accordo, è una polemica su Allegri, l'ha riconosciuto lo stesso Allegri, è un guru assoluto, è una delle persone che ha cambiato questo gioco, ha diritto e dovere di dire quello che pensa, si può essere d'accordo oppure no, molto semplicemente. Sandro, sono qua, buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti, siete veramente bravi. Grazie. Tre cose al volo. Allora, la prima è collegata all'audio forum fatto con Crosetti, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri. L'altro ieri, esatto. Una cosa al volo. Lo stimo tantissimo, secondo me è un grandissimo giornalista, però ha detto una cosa che non condivido. Quando parlando del Milan ha detto Mihajlovic, che appunto va in contrasto con la dirigenza perché è uno che non si fa imporre le cose, un uomo tutto pezzo, che avrà i suoi limiti come allenatore, ma comunque ha una sua filosofia, ha detto, a differenza di altri allenatori che sono passati al Milan recentemente, che non avevano molto nervo, per usare un termine carino, e ha fatto i nomi di Inzaghi e di Seedorf. Ora io non vorrei dire, ma io sono milanista, Seedorf a me tanto di cappello mi ha fatto vincere tanto come tifoso, però non è che nutra neanche questa gran simpatia per Seedorf, però no, a onor del vero mi sembra che Seedorf sia stato portato dal Milan, nonostante abbia fatto un girone di ritorno stratosferico, proprio perché era uno che non si faceva dire le cose. Seedorf comunque era stato voluto da Berlusconi e sappiamo come Galliani non fosse poi così d'accordo. Seedorf è stato allontanato per quei motivi lì. Le altre due cose magari dopo, adesso ci fermiamo per il traffico, abbiamo un ospite in linea che, lo dico subito, è Salvatore Aronica, ex Napoli, ex Palermo, la cui carriera si è fermata a Palermo, poi ci facciamo raccontare come. Tutti convocati. Convocati. Allora, ciao Salvatore Aronica, come stai? Buon pomeriggio, tutto bene, ciao. Grazie. Come va? Dove sei? Geolocalizzati, dove sei? Sono in quel di Palermo, adesso sono nella piazza di Mondello, dove c'è una bella giornata, ecco, di sole. Non so perché me la sentivo. Ma stai andando cosa. A Palermo? Sì, ho capito, però adesso allora, sto andando, domenica, mancano tre giorni. Guarda che si affaccia. Chi c'è? signor Cruciani. Vieni Cruciani, vieni a dire due parole di pace. Ricordiamo la nostra rubrica Cruciani porta pace. Ecco, sì, Cruciani è, porta è quello pace. Che ha appena distrutto il Palermo Calcio. No, ma non è vero, perché siete così stupidi? Ecco, adesso sai che c'è stato appena un appello alla collaborazione da parte di Zamparini. Sei stato tu che l'hai consigliato a... No, io ho fatto un'intervista a Zamparini in cui Zamparini, che oggi viene attaccato a destra e manca come una specie di padre padrone che comanda. Io lo difendo a spada tratta per il semplice motivo che chi mette i quattrini ha il diritto anche a cambiare opinione dopo 30 secondi. Mette i quattrini, zitti e mosca. Ovviamente poi si assume la responsabilità di quello che dice, eh. Chiaro, eh? Non è che ha detto che è un criminale, che Iachino è un criminale e va tagliata la testa di Iachino. Deficiente. Vabbè, ma un deficiente secondo lui fa giocare male alla squadra in quel senso. Che defice sì. Nella, diciamo, nell'aspetto tecnico. Defice nell'aspetto tecnico. Come la pensi? Che ne pensi, Salvatore? Ma diciamo che io sono stato, tra virgolette, vittima di Zamparini, nel senso che comunque mi ha tanto voluto, mi ha blindato con un contratto e poi dopo sei mesi mi mise fuori rosa, però come diceva poc'anzi, mi ha continuato a pagare, mi continua a pagare, quindi ha il diritto di farlo. Per quanto riguarda Iachini, io sono completamente d'accordo a Zamparini, perché comunque il Palermo non ha gioco, gioca con un 3-5-2 che è comunque un 5-3-1-1 senza mai superare la metà campo, e dopo tre partite chiaramente Zamparini ha sbroccato perché ha detto anzi può giocare con 5 difensori e non superare mai la metà campo. Sì. Quindi però male non aveva fatto l'anno scorso, tu mi dirai, con una squadra che era Dybala, con una squadra più forte, però male l'anno scorso non aveva fatto. Senti, tu no, diciamo che anche l'anno prima aveva fatto benissimo vincendo la Serie B con tutti i record, però se tu ci metti che in Serie B c'era Sorrentino, Hernandez, Lafferty, Dybala, Vasquez, Maresca, diciamo, voglio dire, diverso, non era difficile fare male. Diverso, sì. L'anno dopo c'era Vasquez, Dybala, Rigoni e Gonzalez con acquisti di valore. Quest'anno, dove è venuto meno Dybala, Rigoni è dovuto andare via, Gonzalez non si è espresso ai livelli dell'anno prima, ci voleva qualcosa in più forse da parte dell'allenatore, è venuto a mancare. Adesso io sono schietto e chiaro, non me ne voglio Iachini, ma dico quello che penso, perché poi la verità è quello che il Palermo quest'anno non ha mai giocato, si è sempre difeso cercando di rubacchiare punti a destra e a sinistra, però è Zamparini, che comunque è uno molto lungimirante, si è accorto che il gioco il Palermo non l'avesse. Senti, invece nel Napoli di oggi rivedi lo stesso spirito del tuo Napoli di Mazzarri? Sì, quello sì, sotto questo punto di vista è un collettivo che cerca sempre la vittoria fino al 90esimo, che si esprime bene, forse secondo me giocano anche meglio, perché noi magari avevamo un gioco un po' più speculare con una difesa a tre, quindi con magari due mezze punte e un solo Cavani avanti, quindi giocano un po' più un atteggiamento offensivo e chiaramente è aumentata anche la qualità nei protagonisti, perché comunque c'è giocatori di valore, da Higuain a Caglion, passando per Mertens, Insigne, quindi sicuramente anche questo giova, però come spirito di volere raggiungere la vittoria a tutti i costi rivedo un po' il mio Napoli. E letto cosa ha detto Ivan Ramiro Cordova a proposito di Mazzarri? No. Ha detto che la sua gestione all'Inter è stata una gestione senza anima, e ha detto che l'Inter è troppo per un allenatore come lui. Ma io ho lavorato 7 anni insieme a Mazzarri, è stato per me un grande allenatore e anche un grande amico. Devo dirti che chiaramente gestire una grande, da gestire la regina o il Napoli, diciamo, dei primi anni, chiaramente ci sarà differenza, ecco. E probabilmente anche i risultati hanno testimoniato che ha avuto tante difficoltà e che comunque è incappato anche in un'annata negativa. L'unica cosa che posso e penso di dire a favore di Mazzarri è che comunque la squadra non l'aveva completamente allestita lui, ma ha trovato, diciamo, una squadra già assemblata. Chiaramente lui, se non ha gli uomini che vuole sugli esterni, se non ha magari i difensori che sanno giocare a tre o che capiscono bene il suo modo di leggere la partita, chiaramente va in difficoltà. Poi se ci metti che ha a che fare con dei campioni e non c'hai Aronica, Cannavaro, Campagnaro, che comunque non buttiamoci giù, no, nel senso che puoi dirgli qualche parolina in più, un rimprovero in più, magari puoi avere, diciamo, un piglio diverso, magari da gestire campioni di un certo tipo viene anche un po' più duro e quindi vengono recepiti anche gli input in maniera diversa. Allora, domenica vediamo Palermo-Napoli, che Pierluigi Pardo non commenterà perché è passato dall'altra parte della barricata. Questa la sai. No, devo leggerti questo. No, è dall'altra sponda. No, adesso sponda. Scusate, lo dico. Sì. Guarda De Luca come ride, poi dici che l'ambiente del calcio è macista. Io sono a favore, tra l'altro. L'altra parte della barricata. Sì, perché io sono a favore anche delle unioni civili, lo dico con. Benissimo. Ieri è stato. Abbiamo chiamato Novellino che stava andando a incontrare Zamparini. Abbiamo pensato che ha grosso modo confermato. E ha assunto Pardo come tattico, hai capito? Sì, e quindi Pardo lascia la carriera di telecronista, va a fare. Quindi quale Palermo sarà contro Napoli? No, ci vediamo stasera a cena lì a Mondello, in piazzetta. Questo mi sembra arrembante, un Palermo arrembante, allora, diretto da Pardo. Sì, tanto avrà tre partite di giochi tutto, poi c'è un altro cambio. No, ma a proposito di questo, c'è un messaggio che mi fa. Ragazzi, vi confesso che ultimamente con quello che combina Zamparini fa paura anche andare a fare spesa al suo supermercato. Vivo col terrore che mi cambi la cassiera mentre mi sta dando il resto. Vabbè, ormai ovviamente vale tutto. Però le ultimissime, insomma, parlano di questo comunicato stampa del Palermo da parte del presidente, che chiede collaborazione, dice che Ballardini se n'è andato essenzialmente per scelta sua. Ma mi spieghi qualcosa in più del rapporto, del ruolo di Sorrentino nella squadra? È vera questa storia che Ballardini avrebbe detto torno se Sorrentino viene fatto fuori? Allora, le ultime, che comunque purtroppo io essendo a Palermo, avendo comunque tanti amici al mondo del calcio, le so, quindi magari in prima battuta. C'è da dire intanto, vabbè, per quanto riguarda la lettera di Zamparini, 3 settimane fa aveva chiesto scusa, perdono a tutto il mondo attorno a Iachini, però come si è ben visto dopo la distanza di 3 settimane... è di nuovo intervenuto a gamba tesa, come si vuol dire. Ballardini Sorrentino c'è stato qui pro quo già alla vigilia di Verona, dove comunque Ballardini aveva messo in discussione la professionalità di Sorrentino, e chiaramente su questo ha sbagliato notevolmente, perché diceva situazioni che lui spingesse per far arrivare Iachini piuttosto che continuare a dare la mano a Ballardini, quando invece Sorrentino nelle ultime partite era stato sempre il migliore in campo. Per quanto riguarda la sua uscita in TV, io credo che sia stato appoggiato dalla società, perché io gioco tanti anni al calcio è un calciatore. Questo, non è mai non va a dire quelle cose in televisione se non ha la società non ha la forza, perché un giocatore che fa un'uscita del genere viene messo non fuori rosa, fuori di città più, completamente. Fuori città. Grazie Salvatore. Ciao. Ci vediamo domenica. Domenica vi vedete, intanto fatti noi ascoltare, che magari dietro qualcosa può servire. GR, poi parliamo anche un po' di Roma. Sì, anche di Lazio, che oggi anche gioca. Lazio, no? prima GR. In Europa League. Di che stiamo a parlare? Di che parliamo? Mo dica lei, di che volevo parlare? Tutti convocati. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Tutti convocati. Vabbè, Pierluigi Pardo, torniamo, parliamo con gli ascoltatori. Sì, sì. Molto volentieri. Matteo? 800240024, vai. Matteo, buongiorno. Matteo. Andiamo oltre, direi, no? Raul. Ecco, Matteo. Raul da Modena, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo solo controbattere a quel telespettatore che ce l'aveva con Sacchi, che la Sacchi la deve smettere, che qui tanto parte il tuo credito solo delle gran cavolate, perché Sacchi ha vinto in tutte le categorie, a parte quello. E poi quello che ha portato Sacchi al calcio italiano è innegabile e non si può discutere. Quindi quando Sacchi parla si ascolta e si tace. Sì, poi uno può avere una idea diversa. No, si può anche non essere d'accordo, questo è legittimo. Però si ascolta e si tace. Perché cioè, quello che ha fatto Sacchi l'hanno fatto in pochi in Italia, come tutto, come innovazione, come tutto. Quindi poi ridurre tutto ai tre olandesi, che ha vinto più tre olandesi, allora io posso ridurre tutto a Trapattoni, che aveva otto campioni del mondo, più Bonnet che Platini, nessuno, e non ha vinto niente, il capitano nazionale. Nessuno discute quello che ha fatto Sacchi, non abbiamo fatto nemmeno noi, cioè ha portato una rivoluzione di mentalità, come scrive giustamente un ascoltatore da Firenze, ha cambiato la mentalità soprattutto in trasferta, come giocava quel Milan, che era fortissimo, ma senza squadre fortissime, è andato a imporre il suo gioco, ma ragazzi, io credo che ha cambiato la mentalità, che la cosa è molto molto semplice, cioè esiste un rispetto per la leggenda, e che non può essere spazzato via dal fatto che non siamo d'accordo su una cosa che dice. Io non sono d'accordo con quello che dice, ciò non toglie che Sacchi sia un guru, ma l'ha detto anche Allegri, al di là della battuta un po' perfida sui 70 anni, ma in assoluto l'ha detto, e quindi basta. Poi cioè, ci sta questa roba qui. Io non sono d'accordo, perché penso che la Juve sia bella, magari ci sono state squadre più divertenti nella storia del calcio, sicuramente quel Milan lì è stato qualcosa di supersonico dal punto di vista dello spettacolo, ma non dobbiamo fare i paragoni con 30 anni dopo, 20 anni dopo. La Juve gioca molto bene, è molto solida. E fra l'altro Allegri secondo me ha una dimensione europea. L'altro, se hai visto Real Madrid, non dirmi che gioca bene a pallone. Ma assolutamente, ecco, appunto. Quindi di che stiamo parlando? Detto questo, non sono d'accordo con quello che dice Sacchi, ma adesso non è che improvvisamente è diventato uno che non ha vinto nulla, che non serve a nulla. No, è uno dei grandi storici, degli uomini che hanno cambiato questo gioco. Hai visto Real Madrid, ma hai visto anche la Roma. Sì. Di quello vorrei parlare adesso. Spalletti, che peccato. Perché cosa? Beh, insomma, una Roma che ha avuto le occasioni per passare in vantaggio, è mancato un gol che poteva rovesciarla questa partita, come avevamo detto alla vigilia. Ho capito, se non lo fai e poi gli altri lo fanno, è inutile andare a recriminare, bisogna prendere sempre atto della realtà. 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno, qualificato giustamente il Real Madrid. Secondo me stasera ci è andata bene, perché dopo l'uno e il secondo, non mi sarei meravigliato se ne riprendevamo come è successo in precedenza, con chi mi ha preceduto, con me pure, perché io sono uno di quelli che nella storia della Roma l'ho fatto qualche risultato di quelli che mi porterò dietro. Vuol continuare, come ho detto prima, a rotolarsi dietro complimenti, facciamolo quanto ci pare, però se non si prende atto della realtà e si fanno dei balzi veloci invece di fare dei passettini, e diventa più lunga la strada, perché come si dice spesso noi dentro il nostro ambiente, noi siamo la Roma, sì, ho capito, ma bisogna comportarsi da Roma. Ieri ne abbiamo parlato tanto, Spalletti il fustigatore, è il tema. Roberto Renga, buongiorno. Roberto, non mi sente. Roberto Renga. Sì, mi sento. Io sento. Ah, ciao. Ciao. Sì, buongiorno. Ah, questo è il tema, diceva giustamente Pardo, che ha commentato quella partita, che ha sentito, visto Spalletti in versione fustigatore. È chiaramente un'inversione di rotta rispetto a... possiamo dire una mezza rivoluzione anche rispetto a quello che dicono normalmente gli allenatori italiani. Giochi contro una grande squadra, abbiamo fatto il possibile, più di così non si poteva fare. Spalletti è andato decisamente fuori dagli schemi, in piena sintonia con il ruolo che si è assunto. È così, Pierluigi? Assolutamente sì. Credo che Spalletti sia qui a Roma per fare la rivoluzione culturale nella testa della città, nella testa dei tifosi, nella testa dei giocatori, nella testa dei dirigenti, nella testa dei giornalisti, e ho finito con le teste. E questo però secondo me è il tema, e la sta facendo con grande forza, con grande veemenza, supportato dai risultati. Non mi aspettavo quelle dichiarazioni al fischio finale dell'altro giorno, credo che esista, perché già l'abbiamo detto ieri, una diversità di ruolo fra noi che dobbiamo valutare quello che vediamo e lui che deve educare e fare didattica psicologica nei confronti della squadra e dell'ambiente. Per cui secondo me noi possiamo dire serenamente che la Roma l'altro giorno ci è anche piaciuta, sì, che al di là della fase di concretizzazione, di finalizzazione che è completamente mancata, ha giocato una buona partita. Lui deve dire quello, e il fatto che abbia detto questo mi sembra importante, mi sembra culturalmente enorme. Sono d'accordo. Posso aggiungere una testa? Spalletti fa anche il tagliatore di teste, come abbiamo visto con la vicenda Totti, ma mi aspetto anche quella di Dzeko, che ormai è un caso da psicanalisi, Roberto. Sì, allora, non tanto volevo dire, aggiungere anche la testa mia, non che l'abbia tagliata. Eri fra i giornalisti. No, ma dico che secondo me ha mille volte ragione Spalletti, perché io ero in diretta, in pratica sentivo Pierluigi e sentivo la radio dove ero in diretta. E sentivo già dei commenti entusiasti dei tifosi. Io facevo: porca miseria, ma come si fa a celebrare una sconfitta, anzi una doppia sconfitta, 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno? Dice: perché comunque abbiamo già giocato quasi alla pari con il Real. No, non è vero, hai preso 4 gol e non hai fatto nessuno. Ed è chiaro che se la mentalità deve essere questa, dice, abbiamo quasi giocato alla pari con una che non è la migliore squadra europea in questo momento, ebbè la mentalità è sbagliata. A me ha ricordato molto Capello ragionava in questa maniera, Capello era sempre molto freddo sia davanti alle vittorie che davanti alle sconfitte, e diceva che bisognava costruire una nuova mentalità, quindi una rivoluzione fredda e ragionata anche quella di Fabio. Spalletti bravissimo, eccetto che in un caso, l'utilizzo di Dzeko. Io non l'ho capito. Siamo in tanti a non averlo capito, anche perché la squadra ha funzionato perfettamente con la Fiorentina e con un modulo diverso che non prevedeva Dzeko. Certo, cioè in pratica la Roma, non dico che abbia giocato in 10, ma quasi. Mentre la Roma in precedenza con i due larghi, no? E Sarabi e Salah, e con Perotti trequartista, era andata benissimo. Pjanic avrebbe potuto giocare nel ruolo suo anziché andare a raddoppiare, no? su Cristiano Ronaldo o su Marcelo, e tutti si sarebbero probabilmente trovati meglio. Per cui dico, Spalletti ottimo nelle dichiarazioni, ottimo anche nel creare questa Roma, no? Che sa ripartire così bene, che sa anche giocare d'attacco certe volte, non soltanto ripartire, ottimo per l'impostazione della difesa, che finalmente i difensori stanno anche in posizione giusta fisicamente, non soltanto mentalmente, però mi rimane questo rimpianto, perché la Roma non ha giocato in 11? Sì, Dzeko è eccellente centravanti, secondo me resta un eccellente centravanti. Tieni conto che Pierluigi, la Roma è strutturalmente da anni che gioca senza un giocatore di questo tipo, sì, dallo Spalletti 1 a tutto quello che è venuto dopo. Provo a spiegarmi la scelta. Dzeko, prima delle ultime due partite, delle ultime due panchine con Empoli e Fiorentina, nelle quali è entrato negli ultimi minuti, era in risalita, 3 gol nelle due gare precedenti. Poi Empoli non era stato benissimo in settimana, è partito dalla panchina, è entrato nel finale anche contro la Fiorentina. Sicuramente la squadra in questo momento gioca meglio con i tre, con i quattro, con i tre piccoli, diciamo, col falso 9. Però in una partita nella quale devi fare la gara, devi quantomeno provarci, partendo dallo 0-2 dell'andata, una scelta come quella di Dzeko, secondo me una logica ce l'aveva. Semmai il dubbio forte che avevo era in mezzo al campo, nel senso che temevo che senza Nainggolan, con Dzeko punta centrale, insomma Pjanic e Keita potessero soffrire un po', cosa che secondo me non è successa, perché sul piano del gioco la Roma ha concesso possesso palla al Real ma senza rischiare moltissimo, anzi sembrava quasi una concessione di un possesso palla per poter avere campo per ripartire. E poi chiaramente la differenza la fanno gli episodi. Dzeko si è divorato un gol pazzesco, fra l'altro il più importante, perché è stata in assoluto la prima occasione della gara, quindi poteva indirizzarla da subito. Salah, che ha giocato una partita nettamente migliore di Dzeko, comunque si è mangiato due gol pure lui. Certamente. Quindi alla fine loro Pierluigi, io lo sai che alla fine avevo 7 occasioni per parte, quelle della Roma, no, più nette quelle della Roma, sì, però 7 per parte più i due gol del Real Madrid. No, ma Szczęsny fa una parata clamorosa in avvio di ripresa, all'inizio della ripresa la Roma parte malissimo, viene schiacciata al Real Madrid per 5-6 minuti, poi ha due palle gol clamorose, e io credo che sia un grande rammarico, perché questo Real Madrid, adesso detto oggi, secondo me non è una grande squadra. No, non è una grande squadra. Sarei stato curioso di vedere la Juve di Allegri contro questo Real Madrid. Secondo me qualche possibilità in più ce l'avrebbe avuta. Detto questo, la Roma nelle due partite sul piano del gioco, secondo me va detto, non è stata così inferiore al Madrid, e questo per me rimane, perché se no poi non possiamo mai parlare, cioè una differenza esiste fra questa sconfitta e quella col Barcellona. Perché se no, ma c'era anche la, credo, la paura di ricascare o quella col Bayern, voglio dire, no, ma questo lo dico come difesa della possibilità di dire, no, c'è la famosa frase mai schiavi del risultato, cioè chi osserva là fuori deve avere secondo me la possibilità e il dovere di raccontare una sconfitta a testa alta e di poterla chiamare con il suo nome, cioè una sconfitta a testa alta. L'allenatore, che invece ha un ruolo fondamentale dal punto di vista dell'allenamento psicologico dell'ambiente, e deve dire che, fatelo dire ai commentatori, che questa è una sconfitta a testa alta. Dentro a questo spogliatoio sappiamo che siamo stati dei pirla, perché potevamo approfittarne e non l'abbiamo fatto. E poi non piacerà a Sacchi, ma alla fine in queste partite la differenza la fanno sempre i colpi dei grandi campioni. Mettiamoci pure questo, perché a Dzeko da una parte e Cristiano Ronaldo dall'altra, a maglie invertite, magari va in un altro modo. Comunque Dzeko mi sembra un giocatore completamente disintegrato sul piano emotivo. Torno a ripetere, secondo me è un eccellente centravanti. Credo che con la logica di Spalletti in campo non lo vedremo più per un bel pezzo, forse fino alla fine della stagione. Io penso che ormai è maturo anche per, adesso senza offesa per carità, per essere portato un attimo sul lettino dello psicologo. Perché ha ragione Pierluigi, a me Dzeko aveva dato la sensazione di che stava migliorando. Cioè la preparazione ad de personam che gli veniva fatta l'aveva portato quasi a una condizione, non dico di sufficienza, ma quasi, lo vedevo migliorato. Poi improvvisamente gli è crollato il mondo addosso, forse ha sbagliato quell'occasione, ma anche in quell'occasione non si riesce a capire perché ha portato la palla sul sinistro e se l'è portata larghissima, quasi volesse sfuggire dal gol. Io mi ricordo una volta c'era Pierino Prati che fece una cosa terrificante, no? Nel corso di una partita, e il giorno dopo andai dallo psicologo che era Mario Teda e lui mi dette una spiegazione molto razionale, perché attenzione, valgono le gambe ma vale soprattutto la testa, e in questo momento la testa di Dzeko non so dove sia, e ritorna al discorso di Pierluigi sulle teste. Ritornano le teste che sportivamente cadono, rimangono, almeno con Spalletti, rimangono dei limiti, abbiamo visto anche sui gol subiti, dei limiti individuali precisi soprattutto dietro in questa Roma. Digne non sa difendere, Digne è un buon terzino d'attacco che non sa difendere, Florenzi è una grande ala, cioè la Roma gioca così, anche a Madrid ha giocato con due stopper e poi tutti i calciatori all'attacco. Che poi si siano posizionati in fase difensiva va bene, però sono tutti giocatori con propensione offensiva. Digne non è un difensore, Digne è l'ideale come Florenzi per una difesa 3 con due esterni che poi salgono. Quando crossa è bravo, una volta l'ho visto anche tirare e fare un gran gol, ma nella marcatura non c'è. Grazie Roberto. Ciao. Grazie ciao. A voi. Ciao. Andiamo dall'altra parte del Tevere, gioca la Lazio. Gioca la Lazio, partita importante. Sentiamo Pioli. È bastato far vedere ai miei giocatori le caratteristiche della squadra avversaria, è bastato far vedere i numeri di questa squadra che, ripeto, è imbattuta, che ha fatto bene nel girone, che ha battuto in doppio risultato netto positivo il Krasnodar, che aveva nel girone precedente superato addirittura il Borussia Dortmund, quindi è una squadra a tutti gli effetti, una squadra da affrontare con grande rispetto, una squadra che subisce pochi gol, una squadra che fa tanti gol in trasferta, e quindi ci vorrà come sempre in Europa grande ritmo, grande intensità e giocare il nostro calcio migliore possibile. E speriamo, assolutamente. Speriamo. Anche perché io sono convinto che la Lazio abbia, così come ha fatto una stagione pazzesca l'anno scorso, quest'anno ha parecchio da farsi perdonare. Sì. Perché secondo me ha una qualità complessiva molto alta, o comunque alta, sicuramente migliore della classifica che ha. E quest'anno sono mancati per troppi periodi i giocatori che fanno la differenza, Felipe, lo stesso Candreva che era partito abbastanza lentamente, Biglia che ha avuto qualche infortunio, insomma l'Europa è un bel percorso possibile, il campionato secondo me difficilmente può regalare qualcosa di importante, la Lazio è in quel limbo di chi non rischia nulla ma non ha neanche grandi prospettive, sì, per cui deve puntare tutto sulla coppa alla squadra. E poi sai, arrivi a giocarti magari un quarto di finale, magari anche se trovi una squadra così hai un'ulteriore occasione, se trovi una grande comunque ti regali la possibilità di sfidare un Manchester United, un Liverpool, un Borussia Dortmund, cioè significa comunque secondo me impreziosire una stagione fin qui davvero dubbio, troppo povero. Non c'è dubbio, però questo Sparta Praga è da saltare, cioè l'ostacolo Sparta, certo, secondo me è da saltare, nonostante tutti i problemi di Pioli. Alessio, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Senta, io vorrei uscire un attimo dal seminato delle coppe europee e farvi una domanda sul campionato mediocre che sta facendo il Milan, e secondo voi che piazzamento può arrivare a fine campionato? Un'Europa League. Sì, sì, credo che non ci siano grandi possibilità in più. Cioè, penso che la dimensione del Milan dipende molto anche dal ritmo che tiene la Roma, che nelle ultime 7 partite ha sempre vinto. È chiaro che se dovesse continuare a andare così a ciuffare il terzo posto diventa complicatissimo. Ma inutile parlare. Io credo che il Milan sia fra il quarto e il sesto, proprio senza... Sì. Poi dovesse arrivare quarto, io direi che la stagione del Milan, tutto considerato, sarebbe stata una buona stagione con la finale di Coppa Italia. È un po' come il discorso che facciamo sulla Lazio per quanto riguarda l'Europa League. Io credo che adesso ci vorrà ancora qualche giornata per assestare la classifica, evitare i guai, anche perché il Sassuolo comunque non scherza. Però una volta portato a casa l'obiettivo Europa League, poi secondo me la stagione per il Milan diventa il 21 maggio, la finale di Coppa Italia, che comunque ha la possibilità di alzare un trofeo. E non è che succeda a tanti, perché per dirti, la Roma negli ultimi anni ha fatto degli straordinari piazzamenti importanti dal punto di vista economico, però non ha vinto, soltanto il Napoli di fatto e la Lazio in quella famosa finale contro la Roma hanno vinto altri trofei. Quindi comunque arrivare a giocarsi questa coppa in una finale prestigiosa all'Olimpico contro la Juve, alla fine secondo me sarà un pensiero che finirà anche per assorbire qualche energia nelle ultime 2-3 settimane. Dovesse arrivare quarto, e ne dubito, e magari alzare la Coppa Italia, sarebbe stata una stagione eccellente. Allegri, prima della partita col Sassuolo, per nulla facile. Importante per noi, soprattutto perché bisogna vincere contro una squadra che sta giocando molto bene, è a ridosso dell'Europa League, della zona d'Europa, una squadra che finora ha battuto tutte le grandi, quindi sarà una partita difficile. Il Bayern per noi non deve essere un'ossessione, l'ho già detto e lo ripeto. Per noi la Champions deve essere un sogno realizzabile, quindi ci penseremo da sabato mattina. Sogno realizzabile, per stesse parole che usava l'anno scorso, non un'ossessione ma un sogno realizzabile. Certo, difficile. Difficile, ma... Non pensare al Bayern. Ah, sì, certo. Tanto leggevo delle notizie secondo cui faranno di tutto per recuperare Chiellini. Come sta? L'hai visto ieri? Sì, per me... Recuperabile. Beh, per il Bayern sì, per il Sassuolo ovviamente no, chiaro, anche perché se anche fosse in condizione, sì, penso l'obiettivo sia quello e ci sia ottimismo sul recupero. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dico. Buongiorno. Sentivo gli ultimi discorsi sul centravanti della Roma, no? Sul Deco. E volevo solo, magari con tutto rispetto, ricordare che una delle massime, secondo me, più vere del calcio è quella del compianto presidente della Roma Viola, che alla fine è una questione di centimetri. Proviamo a pensare che magari un millimetro sull'impatto tra piede e pallone di Zeko in quel tiro che si è mangiato poteva in pratica cambiare gli esiti completi del suo giudizio. Quindi dire che un giocatore ha bisogno dello psicologo perché ha un periodo negativo è una cosa molto negativa, quella di Dzeko, che è arrivato quello che lei sta dicendo è verissimo, ma è lo sport. È vero. La frazione di secondo che rende una medaglia d'oro olimpica una medaglia d'argento, e ha ragione sicuramente. Noi siamo qui a commentare situazioni mutevoli, liquide, come ci piace ripetere, e legate veramente a battiti, a istanti, a frazioni di secondo, a centimetri, a ciuffi d'erba, all'elemento filosofico della fortuna o della sfiga. C'è anche questo. Però poi, se una squadra ha 5 palle gol davanti al portiere e fa 0 su 5, far finta che sia soltanto sfortuna è sbagliato, ed è la mentalità che Spalletti sta cercando di contestare, certo, in queste ore. Questo giocatore è in crisi. Tra l'altro sottolinea anche De Luca, che annuisce. È in crisi. È in difficoltà. Sei ottimista del Palermo, De Luca? Moderatamente ottimista. Fa più paura con Novellino? Allora facciamo un test a De Luca. Dal punto di vista del tifoso del Napoli, il Palermo fa più paura con Novellino dopo questa settimana surreale, con Iachini o con Ballardini? Con Iachini faceva più paura. Quindi diciamo De Luca 2 punti, 3 punti facili a Palermo. Questo è un po' il titolo. Sì. Domani ti parlo invece di oggi non faccio in tempo di un altro grande attaccante che è tornato. Adriano. Miami United. Ma stanno tutti a Miami. Ma che ci sarà di bello a Miami? Che vanno tutti a Miami. Ah, c'è pure la. Ah, per quello vanno? Vabbè. Ciao per Luigi, sentiamo domani. Ciao. Giorgio De Luca, Andrea Roccabella, Federico Binda, ciao a tutti. È finita! È finita!